24. La storia. Secondo me, come James Dean, come certe figure luminose dello Star System, hanno vita breve. Hanno vita breve proprio nella realtà, perché il loro successo è talmente importante, è talmente sconvolgente il costume della generazione a cui appartengono, che non possono passare incolumi da questo risultato straordinario. Tenco fabbrica per forza una mitologia, perché chi è più di rottura, più di Tenco nella canzone italiana? È impossibile immaginarlo. Le ha tentate tutte e secondo me è una vittima di un sistema, però la sua reazione lo rende mitologico. Il 27 gennaio del 67 all'Hotel Savoy di Sanremo moriva con un colpo di pistola alla tempia Luigi Tenco. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di uno dei cantautori più originali della musica italiana. La morte di Tenco in pieno Festival della Canzone rimane ancora oggi una ferita aperta e un enigma irrisolto. Nel 2003 i giornalisti Aldo Fegatelli Colonna, Marco Buttazzi e Andrea Pomati presentano un esposto denuncia alla Procura di Genova che riapre il fascicolo sulla morte di Tenco e nel febbraio del 2006 dispone un'autopsia per fugare ogni dubbio sull'accaduto. La distanza dell'arma, la distanza della canna dal corpo, la direzione del proiettile, sono tutte cose che inducono a pensare, che inducono a confermare che la mano fu una mano suicida e non una mano omicida a determinare la morte di Luigi Tenco. Dunque lo avete sentito, per il procuratore di Sanremo, Mariano Gagliano, che ha riaperto il fascicolo Tenco, il caso è chiuso. Dietro una morte improvvisa e strana, in apparenza inspiegabile, non c'è nessun mistero. L'autopsia ha evidenziato con certezza che Luigi Tenco si è ucciso sparandosi un colpo alla testa qualche ora dopo che la sua canzone Ciao Amore Ciao non era stata ammessa alla finale del Festival di Sanremo. Eppure neanche questa certezza dà una risposta definitiva all'enigma Luigi Tenco. Perché Tenco si è ucciso a solo 29 anni? È stato un suicidio o un tragico incidente? Perché Tenco ha scritto il suo testamento spirituale in poche righe, praticamente irriconoscibili? Qual è la verità del suo amore con Dalida? E la giuria del festival ha qualche responsabilità nella sua morte? Insomma, che cosa è accaduto quella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio del 67? Sentiamo i suoi più cari amici. Io credo, francamente, avendo vissuto quella notte fino all'epilogo, purtroppo, credo che accadde un momento di grande ira di Tenco, che purtroppo si concluse tragicamente, un momento di grande ira. Io, se volete proprio il mio parere, la morte di Luigi è stata una morte per sbaglio. Per sbaglio. Che cosa è accaduto quella notte a Sanremo? Un incidente. Un incidente. Lei era a Sanremo, immagino? Certamente. Quando è stata l'ultima volta che vi siete visti? Come? Non mi piace parlarne. Preferisco non parlarne. Luigi credeva moltissimo in quella canzone. Ciao amore, ciao era per lui la prima canzone di protesta italiana. Io mi ricordo che nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera. Della canzone presentata al 17° Festival della Canzone Italiana non esistono più documenti filmati, solo foto e una registrazione audio amatoriale. Nino Pirito, giornalista, musicista, soprannominato il re del Festival di Sanremo, ricostruisce così la serata del 26 gennaio 1967. vi assicuro che appena apparì non era lui, non era lui, aveva gli occhi vuoti, aveva uno sguardo assente, come un automa si avvicina al microfono nel suo vestitino nero con la cravatta, ben vestito, bello, bello da impazzire, cioè un bel tenebroso, ma con una faccia incredibile, con un volto irriconoscibile, e comincia a cantare. E canta come se veramente stesse nuotando controcorrente. Si sente che fa fatica quasi a respirare. E io, che sono... anche le allergie mi si attaccano, se uno ha un'allergia, figuriamoci l'emozione e le cose. Mi sentivo male per lui, perché dicevo, ma questo non è Luigi che conosco. E poi, ripeto, poi l'ossessione di questa batteria, pum, ta, pum, ta, pum, e questa voce, la solita, sta... e non sentivi altro. La canzone arrivava così, se arrivava a me così che conoscevo, ho pensato, non ce la fa. Lui finì di cantare e si allontanò, veramente adombrato, incazzato, lascio il palco. Dico, speriamo che nella ripetizione, allora le canzoni vengono ripetute dai grandi interpreti stranieri. Oh, porca miseria, non ti arriva da ridare e fa sta canzone con una drammaticità greca proprio. Sembrava Elettra, il lutto di Elettra. La solita storia. Ma che stanno a fa sti due? Mix 24, la storia. Io certo ero andato a trovarlo in camerino dopo che avevano cantato sia lui che Dalida Ciao amore ciao, e stavano di ottimo umore. Avevamo scherzato sia con Dalida, io avevo detto a Dalida a quale Madonna si è respirata quando aveva aperto le braccia e aveva cantato eccetera, perché aveva questa sua ieraticità, questa sua eccetera. E a Luigi avevo detto alcune cose sulla cravatta, che era sempre la stessa, aveva una cravatta da tanti anni ed era sempre la stessa. Avevamo scherzato su altre cose, insomma un po' così goliardiche, ed era di ottimo umore. Rieccoci, quella che stiamo raccontando oggi a Mix 24 è la storia di un mito della musica italiana, Luigi Tenco. Siamo nel 1967, è la 17ª edizione del Festival di Sanremo e Tenco è in gara con la canzone Ciao amore ciao, insieme alla cantante francese Dalida. Ma come raccontano il giornalista Nino Pirito e l'amico Renzo Arbore, quel brano non convince i giurati. Io fossi stato un giurato quella sera, quella canzone non l'avrei capita. Si stanno per concludere a Sanremo le votazioni per designare le canzoni finaliste della prima serata. Nettamente in testa, Io, tu e le rose, cantata da Orietta Berti e votata in massa. Si profila l'eliminazione di grandi protagonisti come Modugno, Fidenco, Bongusto, Reitano, Dalida, Bobby Solo. Nel prossimo notiziario, i risultati ufficiali. La canzone fu esclusa, evidentemente lo shock fu molto violento. Shock aiutato probabilmente da del liquore, del whisky, qualche pasticca, non so. Dopo la bocciatura della canzone vidi Luigi uscire dal teatro con gli amici della RCA ed era assolutamente pallidissimo, pallidissimo. Io non ebbi il coraggio di avvicinarmi e di dirgli la mia solidarietà, eccetera, eccetera. Quindi quando esce gli altri vanno, tutta la troupe, diciamo così, tutta la squadra dell'RCA insieme a Dalida, vanno tutti a mangiare fuori e Luigi non accetta questo invito, forse addirittura li manda a quel paese, no? Non me ne torno in albergo. Ecco, a quel punto, questa è la ricostruzione, è precisa, lui arriva in albergo, siamo intorno alle 11, 11 e mezza di sera, non più tardi, perché vado un po' a memoria, ma e sicuramente prende la sua macchina. Lui aveva una Spider, forse era una 124 Spider, ma lui si allontana dall'albergo. Si allontana dall'albergo, va, non si sa bene dove, probabilmente in Costa Azzurra, probabilmente da qualche parte. A un certo punto rientra e sicuramente richiama Roma o viene richiamato da Valeria a Roma. E Valeria racconta che questa ultima telefonata, che sarà stata di un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora al massimo, precedente al ritrovamento da parte Dalida del corpo o qualcosa del genere, è una telefonata in cui lui veramente ha abbattuto, ma già gli ha fatto bene andare sulla Costa Azzurra o comunque in Riviera con la macchina scoperta. Quando rientra, Valeria dice, a quel punto l'ho sentito rilassato e quindi abbiamo fatto una lunghissima telefonata di cui non è rimasta traccia, per esempio, neppure nei registri, non si sa nulla. Dalida e i discografici si allarmano per Tenco, non sono tranquilli. Dalida, inquieta, ritorna al Savoy e sarà lei la prima a scoprire il cadavere di Tenco, Ce lo racconta il fratello di Dalida, Bruno Gigliotti Orlando, e poi Lucio Dalla, anche lui al Savoy, quella maledetta sera. C'è stata una sola telefonata. È stata Dalida che ha fatto telefonare ai dirigenti della RCA per semplicemente assicurarsi che Luigi era ben entrato all'albergo e che non aveva avuto un incidente. Dopo un quarto d'ora ha pregato a Paolo Dossena e a Mario Simone di raccompagnarla all'albergo perché era molto inquieta per Luigi. Dice, lo devo andare a riconfortare. Siamo partiti all'albergo, sì. Il resto lo sa. Dalida è arrivata nell'università la prima, ha fatto finta di montare sopra la sua camera, ha preso la chiave e è andata perché lui non era al primo piano, era giù come si dice la dépendance. Lei è arrivata prima nel corridoio e dietro c'era Paolo Dossena, Mario, io e mia cugina e nessun altro. Allora tutto quello che hanno potuto raccontare dopo sono tutte favole. Lucio Dalla è uscito dopo, è stato svegliato dal grido di Dalida, che Dalida quando è entrata da sola prima l'ha trovato per terra, pensava che aveva bevuto, che si sentiva male. E quando ha preso sul seno c'era tutto il sangue, ci ha dato un urlo, dice lui sul momento non ha pensato che lui era morto, ha detto lui ci sente male, allora ha dato un urlo e ha detto subito un medico. Era un bambino in molte cose, però professionalmente, e questo è stato in Italia la sfortuna, era una persona molto, molto seria proprio, era serio, serio con cattiveria, serio con testardaggine. Ho sentito delle grida. E allora sono corso subito, credo che fossero delle cose di allegria. Sì. Sono corso subito e Dalida mi ha visto, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a chiamare un medico, ero molto sconvolto. Il fratello di Luigi Tenco, Valentino, riceve una telefonata. Fecero una telefonata a casa, non ricordo esattamente se fu l'avvocato Attolico o il maestro Zeppegno dell'RCA. Mi dissero che Luigi aveva avuto un incidente e nulla di più. Sul comò c'è il caricatore della pistola e il corpo di Luigi è a terra in una posizione inconsueta, con un braccio sotto al corpo mentre la pistola è sotto una gamba. Ad intervenire il maresciallo dei carabinieri Salvino Lerda. Al termine dello spettacolo sono stato informato dal mio comando che su all'Hotel Savoia era successo qualcosa, si era udito uno sparo. Mi sono subito precipitato unitamente al personale della pubblica sicurezza che a sua volta era stato informato. Quando siamo stati al Savoia ci hanno accompagnato in una camera, mi sembra che fosse il 219 o il 319. E lì abbiamo trovato Luigi Tenco riverso a terra con un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra. Dopo un primo sopralluogo e poche fotografie e pochi rilievi di tipo scientifico, la polizia fa immediatamente portare via il corpo, come racconta Giuseppe Vergadano, impresario funebre. E infatti circa le 2:30 ha suonato il telefono, come succede che c'era un morto al Savoia da andare a prendere. Siamo partiti, andato a prendere questa salma, c'era la polizia, siamo stati una mezz'oretta lì, hanno detto adesso potete muovere la salma e portarla al cimitero. E noi l'abbiamo presa per il cimitero. Arrivata al cimitero abbiamo scaricato, come si facciamo sempre. Quando si sparge la voce di questa morte, i giornalisti e i fotografi cominciano a pressare il commissario, che fa riportare il cadavere al Savoy, come ci raccontano i testimoni di quei momenti, Giuseppe Vergadano dell'impresa funebre e Lello Bersani, giornalista. Dopo 10 minuti arriva la polizia e fa riportate sotto la salma al Savoy, andò com'era, e loro non hanno seguito, no. E siamo andati al Savoy, abbiamo messo la salma per terra come era, con i piedi sotto il comò, con la testa appoggiata lì alla testata del letto, e siamo stati un'oretta lì, che facendo le fotografie e tutto, e poi l'abbiamo ripresa e riportata al cimitero. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare, sta a noi fare soltanto della cronaca. Ancora oggi emergono dubbi sulla vicenda. Durante quella notte, tra il 26 e il 27 gennaio, non sappiamo se Dalida rientra e litigano. E lui, per fare il gradasso, vuole darle una dimostrazione. O se qualcun altro entra, Dalida viene interrogata sommariamente e fatta espatriare subito, accompagnata da Fabrizio Zampa. Perché alle 7 di mattina lei disse: voglio andare via da questo posto. Io e Sergio Modugno, che è attualmente il redattore capo del TG1, la accompagniamo all'aeroporto di Nizza e lei partì per subito Parigi per subito. Parigi, cioè sì. Nessuno le chiese di restare e lei era stata quella che aveva scoperto il cadavere. Ma secondo il fratello Bruno Gigliotti Orlando e Nino Pirito, Dalida parte perché riceve delle pressioni. Lei vuole che il festival si fermi. Quelli che hanno fatto partire Dalida quella sera, Dalida non voleva per niente andarsene via, era presa in crisi, era nervosa, è arrivato il suo marito e dice: no, qua si deve portarla via a Parigi. La polizia l'ha sentita, l'ha ascoltata e poi i dirigenti di Sanremo, loro dicevano: portatela via, perché Dalida diceva: qua il festival Sanremo deve fermarsi il festival. E allora c'erano troppi, come si dice, in giro, troppi interessi in giro, che non volevano assolutamente, e l'hanno detto, hanno pregato alla casa RCA e al marito di Dalida di portarsela via. Dunque Dalida non è che è scappata via, lei voleva rimanere là. Sono stati loro ben contenti di sbarazzarsi di mia sorella Dalida, è questo che volevo dire. Ma in realtà bisogna continuare, perché questa tragedia, pur detta, non può fermare una macchina come il festival. Politicamente non si può fermare il festival perché è accaduta una tragedia, non si può fermare uno show di canzonette soltanto perché qualcuno ci ha lasciato la pelle, e non si può fermare perché il suicidio è vergognoso. Fabrizio De André, tra i pochi compagni a partecipare al funerale di Tenco nel piccolo paese natale di Ricaldone, pochi mesi dopo scriverà per il suo amico d'infanzia la sua più vibrante preghiera. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare. Quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Mix 24, la storia. Io non penso neanche che Luigi sia morto. Per me, io penso a Luigi sempre come una persona che adesso, quando vado a Genova, gli do un colpo di telefono, ci vediamo. È tanto che non vado a Genova, è tanto che non ci vediamo. Ma non vorrei cancellare proprio quella cosa, vorrei che fosse cancellata non solo da me, ma anche da tanta altra gente, perché quella ha lasciato un ricordo negativo di Luigi. Rieccoci a Mix 24. Nelle parole di Gianfranco Reverberi, uno degli amici più cari di Luigi Tenco, non è successo nulla. E invece nella stanza 219 dell'Hotel Savoy di Sanremo qualche cosa è accaduto, e ad aggiungere confusione e mistero c'è infatti anche una lettera indirizzata agli amici, una sorta di testamento spirituale di Luigi Tenco. Ma si tratta di poche righe. È un biglietto per certi versi deludente, un biglietto che, se autentico, dimostra solo uno stato di profonda confusione. Insomma, per molti, come per l'amico Arnaldo Bagnasco, una lettera fin troppo semplice per essere stata scritta da Tenco. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. È una lettera che non sembra appartenere alla sua letteratura. Io non riconosco nemmeno nella punteggiatura, non riconosco i... Era una persona lievemente più complessa del contenuto di questa lettera, cioè molto più complessa del contenuto di questa lettera. È la città dei fiori, disse chi lo vide passare. Nel 1976 Francesco De Gregori, pur non avendo mai conosciuto Tenco, gli dedica il brano Festival. Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi colpì quando poi diventai appunto anche io un musicista. Queste contraddizioni le toccai direttamente, mi sembrò doveroso, insomma, ricordare questo cantante che io non ho conosciuto, ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto. Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta più morale che non professionale. Avete sentito Fabrizio De André, amico d'infanzia di Luigi Tenco. Ma chi era Tenco? Un giovane disperato che decide di farla finita o un giovane romantico che si immola per protesta? Fino a che punto le sue canzoni così tristi e malinconiche erano la fotografia reale della sua anima? E davvero, come cantava in una canzone, sorrideva di rado? Così il ricordo di Mike Bongiorno e dei suoi amici più cari, Gino Paoli, Gianfranco Reverberi e Arnaldo Bagnasco. Io sono uno che sorride di rado. Un ragazzo, direi, un grande romantico era, un ragazzo che credeva moltissimo nel suo genere musicale, però era anche un tipo che si abbatteva molto facilmente. Quando non riusciva a fare successo nelle serate alle quali partecipava, era veramente un disastro, perché si rinchiudeva in se stesso. Infatti è sempre stato un introverso, Luigi Tenco. Che prima implora un po' d'amore. Quando venne fuori Gioventù Bruciata e James Dean, c'erano 80, 100, 200 James Dean a Genova, Luigi, che erano, sì, comportavano in quella maniera lì. Luigi aveva anche proprio la faccia che lo aiutava, quindi era perfetto. Ma non era solo questo, era proprio anche una questione di riservatezza, oltre che di timidezza. Però al di fuori di quello, se c'era un ragazzo con un senso dell'umorismo eccezionale, era proprio Luigi. E nello stesso tempo una persona tremendamente seria, cupa, preoccupata, turbata, incerta, spaventata, fragile. Luigi Tenco, al suo primo ruolo cinematografico importante, decide di interpretare la ballata dell'eroe, scritta dal suo amico Fabrizio De André. Era partito per fare la guerra. Una generazione che cercava il suo eroe, come scrive Fabrizio De André, o forse solo una generazione orfana, confusa, ma comunque la generazione a cui l'improvviso benessere economico dei primi anni 60 pone il dilemma di scegliere tra un inatteso e inebriante consumismo e l'ipotesi di una rigenerazione sociale, come testimonia Arnaldo Bagnasco. Beh, è coraggiosa come lettura e intellettualmente complessa, mentre la nostra vita era di una chiarezza totale. Vivevamo in una precarietà totale, una precarietà mentale e anche fisica. Le difficoltà esistenziali, la ricerca del lavoro, l'orizzonte che non si dipanava, non si chiariva, quindi c'era una vera incertezza. Il problema generazionale era vissuto da tutti noi in maniera molto intensa. Mi sono innamorato di te. Una generazione, quella della Genova della fine degli anni 50, pronta per il grande salto. Una generazione che si ritrova scritta da un pugno di amici che abitano ad est della città, a poca distanza l'uno dall'altro. Un gruppo di musicisti che presto molti si precipiteranno a definire la scuola genovese della canzone italiana. Tra questi Gianfranco Reverberi e Bruno Lauzi, che ricordano così quegli anni. Quell'epoca tutti facevano ancora le canzonette proprio. A Parigi, in Francia, invece c'erano dei poeti veri che scrivevano le canzoni, ma proprio poeti, insomma. E quindi naturalmente noi eravamo tutti affascinati da quel tipo di testi e dalla musica americana. È stata una cosa difficile da spiegare, perché è come se in un quartiere si fossero dati appuntamento delle persone miracolate o destinate a diventarlo, per la possibilità che abbiamo avuto di stare insieme, di fare musica, avendo ognuno di noi una personalità ben distinta. Per quanto riguarda me e Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua. Dove? Corso Torino, 58, settimo piano, senza ascensore naturalmente. Infatti è lì che ho riconosciuto i veri amici, quelli che mi aiutavano a portare sul vibrafono che pesava una tonnellata. C'era Corso Torino, finiva con il cancello, la scuola, dopo la scuola gli Acechi, il cinema Aurora e il Barigia, dove ci incontravamo tutti. Noi entravamo alle due e mezza a vedere i musical, era l'unico cinema dove facessero dei musical, e stavamo su quella panchina seduti a ricantare tutto il musical fino alle 3 di notte. Poi Bruno se ne tornava a casa sua in via Rimassa, che era la zona dei ricchi, io tornavo dalla parte della zona dei poveri dove c'era Corso Torino, e Luigi naturalmente in via Nizza se ne tornava a casa. Lui aveva nel soprapalco del negozio di vini, questo Enos si chiamava, vini tipici, mi ricordo la scritta, c'aveva un clarino in do da banda e io avevo una piccola chitarrina, abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni insieme, ci siamo esaltati, facevamo delle passeggiate, mi ricordo che si guardava al mare, la curva del mare nelle passeggiate serali, erano giorni di speranza, si diceva beh, Gershwin è morto, gli altri stanno così, andremo a Broadway e faremo, rovesceremo il mondo. Non scriverò. I Fratelli Reverberi rappresentavano il luogo musicale in cui si immergevano un po' tutti, da Lauzi a Tenco a Gino Paoli. Sentiamo proprio Gianfranco Reverberi e Gino Paoli. Il punto di riferimento poi era casa mia, naturalmente, dove succedeva di tutto, insomma, si suonava, si cantava, facevano le feste, e questo sempre al numero 58. Settimo piano, quindi naturalmente quando Luigi faceva un pezzo, io facevo un pezzo, Gino faceva un pezzo, o Lauzi, la prima cosa faceva sentire agli amici, e gli amici facevano subito le critiche, quindi dalle critiche naturalmente si cercava di migliorare la cosa. Facevamo delle cose tutti insieme, perché era stramba la nostra cosa di allora, si faceva tutto insieme, sì, sì, sì. Era una sorta di officina. Uno faceva un pezzo e a un certo punto non sapeva più dove andare a finire, c'era quell'altro che diceva prova a fare così, cioè c'era una grande collaborazione, devo dire. Se un giorno tu verrai via con me, amore mio. E così Giorgio Gaber al suo primo programma televisivo Questo e Quello invita proprio il suo amico Luigi Tenco a cantare le sue canzoni. Quindi è solo un caso che si possa parlare di scuola genovese, dopodiché si è affermato questo marchio, una questione di marketing anche, fa parte della scuola genovese, allora vuol dire che è un bravo cantautore. Dove ho imparato ad amare il sole. Ma se, come avete sentito da Nino Pirito, la scuola genovese è solo un marchio di garanzia è invece la voce di Luigi Tenco, unica e inconfondibile. Il suo amore per gli autori francesi, per la canzone americana, il jazz e la passione per il sassofono fanno il resto, come ci racconta lui stesso. Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso insomma, professionale. Era una vocazione, era un hobby, ecco, per meglio dire. Oggi a Mix 24 stiamo raccontando la storia di un cantautore scomparso prematuramente, un artista, un anticonformista, Luigi Tenco. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Luigi Tenco. È il 1959, insieme a Bindi, Paoli, Lauzi, Luigi Tenco si trasferisce a Milano, dove la Ricordi cerca nuovi talenti. A chiamarli nella grande città sono stati i Fratelli Reverberi, gli amici di sempre, che hanno deciso che è ora di fare musica sul serio, come racconta Gianfranco Reverberi. Ogni volta che facevo un disco, diceva, no, non posso mettere il mio nome perché sennò poi quando mi vado a presentare come ingegnere o come architetto, come quello, non ho più credibilità, perché c'era ancora quest'idea che la musica era come andare sulle giostre, non era una cosa seria. Finché un giorno, quando ha deciso invece che avrebbe voluto fare veramente la musica sul serio, è venuto a Milano e ha detto: allora a questo punto ho deciso, ci metto il mio nome, però voglio fare la musica sul serio. Naturalmente, non avendo una lira, si sono ritrovati lui e Piero Ciampi a vivere a casa mia, che ero l'unico che lavoravo, l'unico che aveva una casa. Se sapessi come fai a fregartene così di me. Non pensava nemmeno di cantare all'inizio, come non pensava forse neanche di fare dei testi all'inizio. All'inizio suonava solo e avevamo il complesso, il gruppo, e si pensava solo a fare della musica, a fare del jazz in particolare. Mi sono innamorato di te, per esempio, è proprio un pezzo era un pezzo che era fatto come pezzo strumentale per il sax, che poi ci ha messo addosso sul testo, poi se l'è cantato, ma lui fondamentalmente era più musicista. Tutti gli arrangiamenti che si facevano per la Ricordi c'era l'obbligo di lasciare 8 battute, perché quelle 8 battute doveva esserci il Bigi che con il sax riempiva, prendeva il suo turno. In quel periodo, se tu ascolti tutti i dischi della Ricordi, Vanoni, Paoli, cioè, tutti i dischi, c'è un assolo di... fra l'altro suonava benissimo, una voce stupenda. Lì nascono capolavori, lì ci sono aneddoti formidabili, l'ingresso della Vanoni che incontra Paoli, dice mi faccio una canzone e lui in un'ora gli compone senza fine, cioè ci sono delle cose e lì c'è una vita di gruppo che si dipana e si divertono. Con il suo sax ci siamo messi in giro per la città e l'abbiamo vissuta tutta la notte e siamo finiti persino alla stazione Brignone e abbiamo occupato il binario e lui a un certo punto con questa dimensione del binario che fugge verso un futuro impossibile si mise a suonare lungo il binario questo sax e a me l'immagine che rimane di Tenco è un'immagine meravigliosa, lievemente eccitato dalle circostanze, che suonava il suo sax camminando lungo il binario. Meno male che il treno non è arrivato. Avete sentito Arnaldo Bagnasco, caro amico di Tenco, ma il treno sta arrivando e Tenco non vuole assolutamente perderlo. Le prime canzoni cominciano a girare e il suo nome comincia ad affermarsi. Arrivano le sigle televisive, le partecipazioni importanti, le tournée in giro per il mondo. Le sue canzoni, insomma, stanno conquistando il cuore degli italiani. Un giorno dopo l'altro, il tempo se ne va. I suoi testi scarni rappresentano meglio il cambiamento che la canzone d'autore sta vivendo agli inizi degli anni 60. Tenco mette in musica le trasformazioni di una società, riuscendo così ad anticipare la crisi che stava per scoccare con il 68. Alla tendenza melodica tradizionale della canzone italiana comincia a contrapporsi con l'arrivo dei cantautori una forma di contestazione giovanile, come testimoniano gli artisti Arnaldo Bagnasco, Renzo Arbore e Gianfranco Reverberi. Le parole, soltanto le parole, bastano per fare una canzone che sia veramente vera, giusta, moderna. Non c'è bisogno di altro, bastano le parole. Era un'epoca culturalmente piuttosto riservata, e non si esagerava in retorica, il gruppo aveva una sua severità, in giro c'era la pittura informale e quindi anche l'uso dei sentimenti era molto prudente. Poi lo si legge dalle sue canzoni, questa capacità di essere complesso con delle chiarezze intime. Insomma, noi eravamo ragazzi, vivevamo quegli stessi sentimenti che Luigi cantava. Era sincero in tutte le canzoni che faceva, nei testi che scriveva, che scrivevano sempre o rivolti a qualche cosa di vissuto con una donna o molto spesso rivolti alla madre. Insomma, erano discorsi che faceva alla madre e poi andava di là, si metteva al pianoforte, li scriveva e li musicava. Come fossi un bambino e ritorna deluso. Quelle sono canzoni sempre verdi, quelle non passano di moda. quella roba lì non passa di moda, quelle devono ancora essere scoperte dai critici veri, che devono decidere che quelle canzoni sono dei capolavori, piccole operine che rimangono nei secoli dei secoli, accanto al melodramma, accanto alla musica accademica, accanto alla cosa eccetera, perché sono dei piccoli grandi capolavori. Ancora oggi le canzoni di Tenco rimangono dei classici senza tempo. In pochi anni, dal 64 al 67, Tenco lascia un'eredità formidabile da Vedrai, vedrai, a Mi sono innamorato di te, da Lontano, lontano, ragazzo mio. Musiche e testi che raccontano un'epoca che sta cambiando e che di fatto quasi anticipano il 68, come raccontano Arnaldo Bagnasco e Renzo Arbore. Sono canzoni che già quando venivano cantate in televisione, in un'epoca non sospetta in cui la televisione aveva quella straordinaria funzione, ti davano la sensazione di essere qualcosa di sconvolgente, però non si potevano definire popolari nel modo più assoluto, ma lo sono diventate in maniera importante, sono state riscoperte. Qualche cosa negli occhi. Quando mi fece sentire quella stupidaggine che era Lontano Lontano, secondo lui, e che era una melodia ariosa, meravigliosa, sembrava un po' antica ma era straordinaria, io gli dissi: ma questa è un capolavoro, oppure Vedrai, vedrai. Lui diceva: no, erano delle canzoni più belle che ha scritto. E lontano, stende in canzoni il suo diario, mette in luce le contraddizioni che si celano nel rapporto a due. In fondo ci si innamora perché non si ha niente da fare. Nelle note, nelle canzoni di Tenco e degli altri cantautori c'è anticonformismo, spregiudicatezza, ansia del cambiamento e, come inevitabile, i giovani che li ascoltano ne restano affascinati. All'alba del 1966 Luigi Tenco si trasferisce a Roma, va a vivere vicino a San Pietro e passa con l'RCA, l'etichetta dei primi cantautori, di Morandi, di Dalla, di Rita Pavone, dell'Equipe 84, delle canzoni della Linea Verde. Incontra Arbore e, come racconta, diventano amici. Beh, quando venne a Roma diventò amico di mio e di Boncompagni. Noi facevamo Bandiera Gialla alla radio, eccetera, eccetera. Io trasmettevo i dischi di Luigi in un programma che si chiamava Per voi giovani. Quindi diventammo amici, ci incontravamo al Piper. Una sera con Luigi incontrammo una ragazza bionda che lo aggredì perché non era stata riconosciuta, si chiamava Patti Bravo e era appena arrivata da Venezia, e poi si parlava di musica perché naturalmente io ero un suo grande ammiratore. Ritmo velocissimo e voi ballate. Caro Tenco, le tue proteste non valgono niente. Cosa c'è di strano? Manca ancora un anno, ma il vento del 68 ha già iniziato a soffiare. Pochi mesi prima della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Tenco viene attaccato, accusato di mistificazione e scavalcato a sinistra dai suoi coetanei contestatori. Eppure, con Tenco, la canzone d'autore si fa politica, come spiega lui stesso. Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone. Ch'io di gente da mandare a fondo. Tenco è proprio un artista molto, come si diceva allora, impegnato politicamente, engagé, la famosa espressione di Sartre, dell'impegno politico e civile degli intellettuali, diciamo così. Lui era un militante, ha militato nel Partito Comunista, cioè era più degli altri forse molto consapevole nelle sue scelte. Così lo storico della musica Gianni Borgna. È in quest'area di protesta, quasi di ribellione, che nel gennaio del 67 Tenco arriva al Festival di Sanremo in coppia con Dalida. A Sanremo Tenco porta Ciao amore ciao, una canzone a cui ha affidato praticamente tutte le sue aspettative. Ciao amore, Mix